快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏歌剧艺术家的生涯：茶花女、拉美摩尔的露琪亚、弄臣、唐乔万尼、蝴蝶夫人、托斯卡、曼农列斯科中的著名爱情二重唱，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、萨瑟兰、维克尔、波普、卡纳瓦、卡雷拉斯等演唱。 Braccio mia piccina Oh, Addio, addio, Thank you.

Scordar patria. Yeah! Gente là dentro! Silenziosi stellate a me.

Oh, Chi sarà? Chi sarà? E come sarà giunto? Chi dirà? Chi dirà? Chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per il cielo e un po' per l'amore. Sogni e bene, e bene castelli. Pensiero, tu sei darti le dolci brezze del matrio suono. Applaudirà la la la la la. Presto, bottega, che l'alba già. Presto. La la la la la la la la la la. Ma che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo signora, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la. Oh, tutto bellissimo per me in fa, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per merito, fortunatissimo per merito. La la la la la la la la la la la la la la la. Il giorno sempre d'intorno in giro sta, mi nel cuccagno per un barbiere di da più novena non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettine, lancette e forci al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettine, lancette e forci al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa voi del mestiere con la donnetta, col cavaliere e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, e qua la parrocca, questa la barba, qua la sanguigna, presto mi chiedono, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrocca, questa la barba, presto mi chiedono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, ohimè, che furia, ohimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, su qua, Figaro. Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto fortissime sono quelle turbine sulla terra, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Sarà il tecatum della città, sarà il tecatum della città, della città, della città, della città. Thank you. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。